Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. E carissimi amici di Runtime Radio, benvenuti a questo nuovo progetto di Runtime Radio, sponsorizzato, ideato, capeggiato da Carlo Sant'Agostino, Roberto, me, Davide Gatti, me sono Simone Pizzi chiaramente, e diamo subito il benvenuto a tutti quanti, quelli che qui in chat già stanno scrivendo, ci fa veramente molto piacere insomma questa partecipazione. Vi ricordiamo che potete anche interagire tramite Telegram cliccando su quella cosa che vedete azzurra sopra di voi, cercate ovviamente Quando eravamo futuro anche su Facebook, c'è un bel gruppo dove si potrebbe anche discutere se la gente non fosse così timida, e poi insomma avremo modo di darvi tutti quanti i riferimenti di questo nuovo progetto, di questo nuovo podcast che trovate su Spreaker, quindi probabilmente già da questa sera, da questa notte troverete questo primo episodio già sui feed, su iTunes e via dicendo, ma soprattutto lo trovate live ogni giovedì sera alle 21:30 qui insieme a voi insomma, quindi alla fine ci sarà insomma veramente modo per mandare avanti e per distribuire questo nostro nuovo progetto. Con me Carlo Sant'Agostino. Ciao a tutti. Che tu volevi, dopo la sigla, volevi mettere uno sbrotto. Un bel rutto. Bruttone. Un rutto gigante. Però tu sai che io, cioè nel senso, io sono, è una sorta di malattia. Io poi se metto un rutto poi inizio a ridere e muoio. Quindi non è un meccanismo psicologico strano. Davide Gatti. Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci qua. Io sono, come tutti, tra i quattro qua è il più vecchio, ma non per questo il più saggio. Vedo insomma come al solito gente strana in chat, vabbè, salutiamo ovviamente Davide Gatti, gente che scrive, gente che non scrive e soprattutto gente discografica insomma, che vedo che è molto interessante. Disortografica. Disortografica, scusa, vedete, talmente disortografica, infatti l'ho letto male, però salutiamo FR, salutiamo BRG e tutti i lobby frontali, quelle persone insomma che vogliono ascoltarci più seriamente ma fanno male. Roberto Tomaiuolo. Ciao a tutti, ciao Simone, a tutti gli studi di Circle Mountain che si trova nel Lazio, credo, ultimamente. Sì, sì, poi dipende, dipende. Il Lazio Fornia. Esatto, no, perché poi è un po' come le montagne di Lovecraft, no? Come erano quelle? Sono le montagne... Circle Mountain vuol dire Monte Rotondo, l'ho capita adesso, dopo 30 volte che la dici. Cosa inquietante. Sei vecchio, ormai questo è un segno. E beh, se no non farebbe questa trasmissione se non fosse. Esatto. Allora, proviamo un attimo. Prima presentiamoci. È un po' inutile, insomma, diciamo come cosa, perché io penso che le poche persone che ascoltano la radio ci conoscono. Però metti l'ipotesi che, insomma, preso dall'euforia generale di ascoltare questo programma, che ricordiamo è un programma di società e cultura che guarda al passato, cioè nel senso che comunque sì, noi parleremo degli anni. Introduciamo il tema del programma. Esatto, noi parleremo un'anteprima, chiaramente. Parleremo degli anni 70 e 80 come se parlassimo dell'attualità. Perché... un pezzettino anche dei 90, dai. qualcosa anche dei 90, però prevalentemente. Poi noi 70, diciamo 70-80 che fa anche più audience, no? Da questo punto di vista. Allora, volevo dire. Poi parliamo un attimo della trasmissione, di come l'abbiamo pensata, poi non è che l'abbiamo pensata, ma non è che siamo proprio, ci abbiamo lavorato sopra, insomma, perché andiamo proprio tipo accendi e andiamo. Allora, presentiamoci. Carlo Sant'Agostino, personaggio che negli anni 80 in particolare insomma ha fatto parte di una parte importante della storia, anche dell'editoria, dei videogiochi, dell'informatica in generale, ma che ovviamente arriva da prima, cioè nel senso comunque lui ha passato gli anni 70 e 80 facendo cose. Cosa facevi, Carlo Sant'Agostino? facevo l'essere giovane che già è qualcosa di determinante. Magro? Assolutamente magro, magro. Sì, magro. Lo dico specifico perché molti mi conoscono come sono ora nella mia forma attuale, ma in realtà io ho subito una metamorfosi dalla fine degli anni 90, primi anni 2000. No, la metamorfosi era prima, adesso sei doppio morfosi, cioè. Poi diventate intera morfosi e poi doppio morfosi, esatto. Insomma, prima era metà, poi ma, doppio e poi intero. Ma queste sono, queste sono il matrimonio, il matrimonio, la solita storia. Sì, sì, sì, ma non solo, anche l'università. No, prima è iniziato con l'università. No, allora, parlando seriamente, seriamente è questo. Io ero magro, poi ci si metteva anche che sembra incredibile, ma facevo una cosa che poi ho scoperto che fa malissimo, cioè facevo sport. È una cosa che poi ho scoperto brutta, che faceva brutta, male, brutta. Quindi è brutta e ho smesso, no? E quindi facevo sport, ero giovane, quindi il metabolismo funzionava bene, tutto quanto. Tutte cose brutte, eh? Esatto, poi sono successe due cose, no? Uno, ho scoperto che lo sport fa male, quindi ho smesso. E poi dopo ho iniziato l'università, no? E l'università prima... quando facevo il liceo c'avevo anche più tempo libero e con l'università e in più lavoravo anche insieme e il tempo libero non c'era più, quindi io passavo la giornata come adesso seduto in macchina, seduto all'università, seduto in ufficio, seduto davanti al computer, non facendo più sport. Praticamente sono passato nel giro di 3 anni 4 anni circa diciamo 10 kg all'anno, sì, più o meno, sì, questa era la media più o meno che ho preso in quegli anni. Poi è successo il brutto fatto che mi sono sposato e quindi lì è stato ancora peggio, perché poi prima di sposarmi, anche se no, a casa la mamma faceva da mangiare, permettimi, deve essere contenta tua moglie a sapere che tu è un brutto fatto che ti sei sposato, insomma. Sì, sì, no, ma è stato che succede, tu uno si inciampa, cade, rotola e poi tacchi e poi ti, no, ti trovi sposato, è un casino, è un casino, è un casino, no? Sì, poi succede anche che escono i figli, così poi non si sa bene perché pum pum pum pum escono anche dei figli. Ma poi come la legge di Moore, tu ogni tot anni incrementi del doppio del tuo peso? Sì, no, poi è successo che mi sono sposato, poi è nata la prima figlia e siccome mia moglie era incinta e ingrassava, allora io dicevo no, anch'io, no, certo, giusto, per solidarietà non si può. Per solidarietà, gente magra in chat ci dice bravi, gente magra, grazie. E vabbè, così questo è successo, però poi a un certo punto è successo che ci siamo è saltata fuori anche il podcast, così puff, no? È uscito un pizzi a un certo così. Punto, no? Che adesso vuoi fare i podcast? E io sì, va bene, facciamo i podcast. E allora abbiamo fatto archeologia informatica, che esatto. Poi è andata avanti, dura anche adesso, anche se con calma. E ha fatto ingrassare quello? No, sì, ma io infatti... ancora di più. Ciao. Siccome che Carlo Sant'Agostino, era troppo pesante, l'ho alleggerito da un Vic 20 in compenso, perché così giusto per. Però, tanto ne ho 40, appunto, ne ho dato uno, non è che ce ne ho altri 39. Appunto. No, comunque, ragazzi, state tranquilli perché non è il solito programma di informatica. Poi, chiaramente, no? Insomma, se dobbiamo parlare di questo programma, cioè, noi siamo informatici, però non parleremo di programma. Esatto. È nato. Anche qui rotolando insieme ci siamo scontrati poi con Davide Gatti e Tomaiolo, abbiamo detto perché non facciamo un programma sugli anni 80, 70, 80, quando eravamo giovani, che era tutto più bello, più fantastico, meraviglioso e incredibile, perché sono un nostalgico e quindi mi piace ricordare quando eravamo giovani, perché quindi parliamo di questa cosa qua, di quando eravamo giovani, così almeno c'è un programma dove non mi devo preparare ogni volta con 12.000 pagine da studiare di storia dell'informatica, fatti eccetera, no, arriviamo, parliamo, diciamo 4 cavolate, un rutto e tutti ridono. Benissimo, e tutti siamo contenti. Guarda, dico due cose. La prima è quando tu hai fatto quel discorso prima, mi hai ricordato una delle prime reportage che facevamo con Archeologia Videoludica molti anni fa, quando io e Marco Gualdi intervistammo il buon Danna, che disse no, perché un mio amico aveva una meravigliosa collezione di retro gaming e poi purtroppo è nato un bambino, cioè come se fosse la disgrazia, capito? Ovviamente dal suo punto di vista era una disgrazia, cioè no, però poi purtroppo è venuto un bambino e quindi ha dovuto dismettere tutto. E la seconda cosa è che noi parliamo, diciamo de stazze, de grandezze, dei rotolamenti, ma grazie a Dio in mezzo a noi c'è un uomo che ci fa fare bella figura da sto punto di vista, che è Roberto Tomaiolo, giusto? È stata in una botte di ferro allora, se sono io quello che... Beh dai, tu sei... C'hai il fisico del ventenne, dai, lui è... Beh, lui ha fatto il militare a Cuneo. Esatto. No. 7 anni, com'è? 7 anni di militare a Cuneo. Diciamo che lui c'ha una stazza diversa da noi, è uno che è più curato, insomma, si vede, ci tiene, è un bell'uomo, Domaniolo, diciamo. Dammi tempo. Ma 7 anni perché ti hanno bocciato 6 volte? Esatto. Al militare. Certo, essere bocciati al militare. Buonasera anche a Cuciniere e vabbè, c'è anche un guest 5-7, vabbè, diciamo che noi salutiamo tutti i guest, perché sì, poi dopo quelli che non mettono nome sono guest, li salutiamo tutti in un blocco, dai. Senza numerarli. 3 anni di militare l'ha fatto anche il cuciniere dallo spaccio profondo. Ma lasciatelo parlare, perché voi sapete tutto di me, che io continuo a parlare. Esatto. La mia no, storia, no, Roberto, conosco tutte, Roberto. Maiolo, no? Presentiamo, dai. Roberto, dai, tu negli anni 70 e 80 che combinavi? Beh, negli anni 70 ero un bimbo Piccinino, che è cresciuto in quel di Milano in compagnie molto grandi, per cui io mi ritengo molto fortunato, non ho mai sofferto di solitudine o di nulla del genere. Fin da 6 anni in poi ne uscivamo in 20, per darti un'idea, e la cosa è praticamente continuata per anni, quindi questo io ritengo appunto di essere stato un bimbo fortunato. E negli anni 80 ho vissuto quello che ritengo è senz'altro un periodo speciale della nostra storia, per mille motivi. Poi avremo nel corso delle puntate anche di possibilità di discutere fra di noi, abbiamo anche per fortuna idee diverse su tutta una serie di cose che riguarda quegli anni, e magari sarà divertente appunto parlarne, ma sicuramente sono stati anni fantastici, in particolare per quanto mi riguarda gli anni 80, con tutto quello che è capitato, quindi nulla di particolare, liceo e poi l'università. Poi io ho una storia un po' particolare, perché ho vinto in maniera del tutto inaspettata un concorso per l'Accademia Aeronautica, un concorso che ho fatto per gioco, tant'è vero che quando mi arrivò il telegramma di presentarmi, io ero in Danimarca, stavo facendo fisicamente il bagno davanti alla sirenetta, che lì c'è una sirenetta, mi avevano lanciato in acqua vestito, ero rimerso completamente bagnato, ho chiamato casa da una cabina telefonica, mio padre mi ha detto: guarda, devi presentarti ieri in realtà qui, perché ti hanno preso. Da lì poi una serie di altre cose che quindi tu sei ufficiale dell'aeronautica militare? Sono congedato, okay. Ero, vabbè, questo sì, fino al 2007. Hai capito, interessante sta cosa. E poi ho fatto tante cose, ho viaggiato molto, ho girato molto, quindi... Secondo me tu hai conosciuto... Non mi sono annoiato. Hai conosciuto una persona che conosco io, ma ne parleremo in separata sede. La stessa che mi avevi detto che era in Belgio assieme a me. No, quello no. Però anche lì c'è qualcosa di... Però non lì è più esercito, insomma. Comunque Lobby dice: meglio un fisico da ventenne che un fisico del ventennio, giustamente è una cosa. Però questo è anche vero, è tutto un altro tema, insomma, diciamo così. E poi c'è Davidone Gatti, che Davide Gatti, però diciamo una cosa, poi adesso gli lasciamo la parola. Lui, per non sfigurare, diciamo, non ha fatto il procedimento evolutivo di Carlo Sant'Agostino. Lui è rimasto sempre così, giusto? Più o meno sì. Allora, parlando di peso, io sono partito decisamente alla rovescia. Quindi io sono partito grasso, ma io avevo anche una famiglia grassa. Tu sei nato grasso. Io sono nato grasso e sono forse rimasto, sono forse stato il più magro della mia famiglia, non lo so, vediamo. Non dovrei fare delle non ho più mente i pesi. Comunque io avevo un papà che era un armadio, o dei fratelli che erano degli armadi. Io ero un armadietto, insomma, ero sempre comunque bello, bello piazzato. Però il vantaggio è che è una famiglia con la quale nessuno aveva il coraggio di litigare. Questo è... quello sì. Difatti, quando capitava che anche in automobile che c'era qualche contenzioso, ci presentavamo noi quattro, ci scendevamo di quattro di botto, quelli là stavano sulle loro, non dicevano niente, vabbè, stiamo zitti, perché questi quattro armadi, se arrivano anche solo cadendoci addosso senza avere nessuna iniziativa, ci fanno del male. Quindi io avevo questo vantaggio di non dover litigare con le persone, ma semplicemente cadere, e mi lasciavo cadere, vediamo. La gente mi scansava, vabbè. Comunque molti di voi già mi conoscono e hanno magari anche ascoltato i miei podcast, dove spesso parlo ovviamente di tante cose che sono capitate in quegli anni. Tra tutti voi, come sapete, sono il più anziano, tra virgolette, quindi ho vissuto anche un po' di più gli anni 70, ma sono quelli comunque che ho vissuto con meno, non dico con meno ricordi, ma sicuramente era un periodo talmente diverso rispetto agli anni 80. Io vivevo in periferia di Milano, in una zona che stava nascendo, per cui ricordo un po' come qui il film di Celentano, Via Gluck, non so chi se lo ricorda quel film, che si vedevano queste zone di periferia tutte in costruzione, tutto così molto spartano, cioè con intorno ancora dei campi, dei prati, delle robe. Io quegli anni vivevo in quel modo e un ragazzino che al massimo andava giù in cortile a giocare, non c'era niente, non avevamo niente, forse avevamo una televisione che guardavamo in 5 o 6 a casa di uno o a casa di un altro. Era un periodo abbastanza che non troppo ricco, se vogliamo. E poi invece gli anni invece che ho vissuto con più proprio energia e con il massimo del ricordo sono ovviamente gli anni 80 e 70. Li hanno vissuti i miei fratelli più intensamente, devo dire. Anni 80. Vivi vicino, scusa Simone, vicino alla via Gluck proprio? No, io ero a Cinisello. Era una zona periferica che quando tu guardavi un film, quando guardavi quel film, riconoscevi un po' quel paesaggio come il tuo, sì, ma in realtà erano zone diverse, però insomma erano questi grossi casermoni in costruzione. Io abitavo in una casa da 14 piani, con 6 scale, con 5 appartamenti per piano, quindi potete immaginare, eravamo in 500. Quando c'era da fare una riunione di condominio del mio palazzo a Cinisello, andavamo in chiesa. Occupavamo la chiesa, non c'era una sala per fare la riunione. La cosa divertente di quelli che non sono di Milano, quando vengono, che si ricordano la canzone di Celentano della via Gluck, spesso li porto, quando mi dicono fammi vedere Milano, li porto a vedere proprio la via Gluck, perché tutti i memori della canzone pensano che sia una via chissà di periferia estrema, invece praticamente è quasi centro di Milano ormai, perché è attaccato alla stazione centrale via Gluck, è piena di palazzi eccetera. Infatti rimangono sorpresi dal fatto che la canzone originale di Celentano cantasse dei prati dove c'era l'erba, che ora c'è la città eccetera. Era divertente. Comunque, se non ricordo male, non mi ricordo in quale film, se c'era, era uno di Celentano, uno con Giuliano Gemma, qualcosa del genere, è stato girato a Cinisello, che bianco e nero, un film bianco e nero, si vedevano questi paesaggi molto tutto in costruzione e grosse zone senza strade, tutta zona cementata, ma in particolare prati. Lì in Cinisello ha costruito Berlusconi, lo sai, vero? E cioè, Berlusconi penso che abbia costruito dappertutto, sicuramente ha costruito tutto Milano 2, Milano 3, Milano 2, Milano 3, tutta quella, no, Milano 3 dall'altra parte, Milano 2 lì attaccato. Sì, comunque è una cosa che condividiamo, perché anche dove abitavo io, quando io ero molto piccolo, eravamo praticamente l'ultima costruzione prima dei campi, sebbene fosse ancora Milano. Tant'è vero che girarono alcuni film di quelli mitici degli anni 70, tipo La polizia si incazza. Esatto, tutti quei film lì, sì. È proprio quello, non mi ricordo se La polizia si incazza o qualcosa del genere, che girano a 5 metri da casa mia, compresi finti omicidi. All'epoca non c'era niente, adesso è quasi centro città, e quindi io stesso mi sono spesso ritrovato nella canzone di Celentano, se vogliamo. Vabbè, questa però è una cosa abbastanza comune, perché io per esempio, diciamo, sono nato e cresciuto vicino San Giovanni, praticamente vicino alle mura di Roma, praticamente tra l'Appio Tuscolano, San Giovanni, tutta insomma la zona che oggi non è centrale di più fondamentalmente. E però mio padre mi raccontava sempre che laddove comunque per lì c'erano solo campi, solo prati. Quindi nell'arco dei 30 anni l'urbanizzazione nelle grandi città, insomma, ha fatto veramente tanto. Magari anche questo potrebbe essere potenzialmente un tema. Io invece sono nato nel 72 e devo dire che alla fine degli anni 70 già scrivevo i temi sbagliando sempre le date. Non ho mai capito perché sta cosa, cioè ogni volta Scrivo Roma 12 dicembre 1977, invece era il 78. Non ho mai capito perché non ho mai memorizzato il fatto che gli anni cambiavano, cioè per me era sempre il 77. Poi fondamentalmente diciamo che pur avendo avuto un'infanzia un po' particolare, che adesso non siamo qui, diciamo che mi sono sempre molto divertito, e crescendo diciamo negli anni 80 barra una buona fetta degli anni 90, anch'io insomma ero un po' quello che diceva Carlo, cioè ero magro, facevo sport, ero molto attivo, quindi alla fine facevo tantissime cose. Però a differenza di Carlo, diciamo che gli incontri con le donne non erano gli scontri. Lui guarda, cioè non guardavo solo le vetrine dell'Amiga 500, insomma, questo volevo dire. Quindi invece molti nerd ci tengono a specificare: no, a me proprio non me ne fregava niente, insomma. Esatto. Che poi ci sta, cioè non è che ci sta, però io invece a differenza di voi, però io avevo dei problemi, nel senso, io ero veramente tanto grosso, avevo grosse difficoltà con l'altro sesso, vabbè, se devo dire la verità. Non mi cagava nessuno, in poche parole. Certo, no, vabbè, questo lo diciamo che alla fine è anche, poi ognuno ha il proprio percorso e anche il modo in cui ha sviluppato la propria sensibilità sul discorso, però anche questo del gentilsesso, comunque del rapporto comunque con l'altro sesso o con, insomma, con le relazioni in generale, è una cosa che potrebbe essere anche questo un argomento potenziale, perché poi noi diciamo ci siamo fatti un po' più o meno l'idea di quello che vogliamo raccontare, però, cioè, anzi, di come lo vogliamo raccontare, però non abbiamo ancora un'idea ben precisa di quello che vogliamo raccontare, anche se poi in realtà sì, secondo me sì, perché in realtà è tutto, cioè sì, in realtà, esatto, come dice anche il titolo, come diciamo nella trasmissione, noi racconteremo quegli anni, esatto, ma gli anni è con tutto quello che c'è dentro, quindi dalle donne, come hai detto, dalla moda alla musica, ai dischi, ai libri, ai film, ai telefilm, alle qualsiasi cosa, qualunque cosa che ha a che vedere con quegli anni. Esatto. Quello che voglio magari accennare solamente, ed è una cosa con cui sicuramente tutti ci troviamo più o meno d'accordo, è che il parlare di quegli anni, sì, lo facciamo, io specifico sempre lo faccio perché sono nostalgico, perché siamo cresciuti in quegli anni, eccetera, ma su questo anche durante la riunione ci siamo trovati tutti d'accordo che, e l'hai detto tu Simone, questo nel caso specifico, che quegli ultimi diciamo 30 anni del millennio scorso hanno segnato un passaggio, in ogni caso, cioè hanno segnato il passaggio da un mondo di un tipo pre-globalizzazione al mondo in cui ci troviamo oggi, globalizzato. Sì, la più grossa svolta epocale, diciamo, di quell'epoca, al di là di tutto quello che poi noi possiamo considerare, no? Nel senso che poi alla fine, assolutamente, se c'è un esempio oggettivo è quello, tutto il resto in realtà è misurazione anche basata sull'opinione, perché io ho parlato tante volte anche con musicisti, no? Cioè con persone che comunque hanno visto anche il tipo di arte che è uscita fuori agli anni 60, 70 e 80, però anche lì rientriamo, sì, ok, forse ci sono anche lì dei valori tra virgolette oggettivi, però è più basato su un discorso tecnico e anche di sensibilità, mentre secondo me una vera grande svolta è stata proprio questa, cioè nel senso il mondo della città, della provincia rispetto al mondo totale, cioè nel senso in generale avere un rapporto d'amicizia come ci abbiamo noi, io con Carlo, con Roberto, Davide, a città di distanza 30 anni fa non era una cosa così, cioè non che non esistesse, cioè chiaramente era molto più difficile, era molto più difficile, diverso e impossibile quasi, e diciamo che spesso e volentieri era il frutto di un risultato di un'esperienza specifica, che può essere per esempio il militare. Cioè quando si andava a fare il militare si conosceva gente da tutta Italia e si aveva l'opportunità di confrontarsi con persone che ci avevano comportamenti totalmente anche diversi dai tuoi, abitudini. O le vacanze, sì, infatti erano più o meno questi. Io mi ricordo che io mia moglie l'ho conosciuta in vacanza. Quella che è diventata mia moglie l'ho conosciuta in vacanza. Io sono inciampato. In che senso? Per sbaglio. Sono inciampato, caduto e mi sono sposato. Così. Ah, così. Quello che c'è in mezzo non si ricorda niente, insomma. Comunque. Sì, però, e questo è giusto quello che diceva Carlo. Adesso non anticipiamo chiaramente alcune cose che poi saranno oggetto in particolare di delle vere trasmissioni, perché questa è un'anteprima, quindi ci limitiamo adesso a una chiacchierata. La cosa secondo me importante è che comunque quegli anni sono stati un inizio, sono stati pionieristici. La globalizzazione, come giustamente diceva Carlo e ha detto spesso lo stesso Simone, ma l'era post-industriale, il crollo del muro di Berlino, ci sono tantissime tantissime cose che sono fortemente cambiate tutte insieme, e probabilmente questo ha lasciato comunque almeno in noi, poi vedremo il resto, una memoria davvero difficile da cancellare. La cosa, quegli anni, in particolare gli anni 80 per quanto mi riguarda, sono la cosa che io ricordo di più degli anni 70, di più degli anni 90, di più dei 2000. Beh, è normale probabilmente. Sì, probabilmente ognuno che ha vissuto una fascia ognuno ha vissuto la sua adolescenza in un periodo specifico e tutti si ricordano quel periodo specifico, quel miglior periodo della loro vita, che magari erano i 70, i 60, i 50, i 40, i 30, eccetera. Allora, però effettivamente gli 80 però hanno avuto una risonanza davvero davvero grande, certo, a livello globale. Questo è sia fisiologico che psicologico, cioè nel senso che comunque è un procedimento naturale, poi alla fine, no? È un po' come dire, no, nel senso, tante volte anche quando si discute, magari cioè tu quando eri ragazzino e sentivi, che ne so, tuo padre o tuo nonno diceva ma ai tempi miei, e tu gli dicevi sì vabbè, ai tempi tuoi, e poi oggi magari ti ritrovi a fare lo stesso ragionamento perché pensi che quando lo facevi tu ai tempi tuoi era meglio perché era più composto, certo, era più ordinato, era più chissà che cosa, capito? No? Quindi c'è questa fisiologia. Assolutamente sì. Salutiamo Alessandro in chat che dice la riunione a San Siro, non so che significhi. No, la riunione condominiale, si riferiva a quello, che noi andavamo in chiesa perché eravamo 300 a fare una riunione condominiale, lui ha detto a San Siro. Ah, giusto, giusto. E Michela dice allo stadio. Diceva Michela che lei, sì, no, vabbè, San Siro quello l'avevo capito che era lo stadio, ma non avevo capito l'aggancio. Michele invece dice che andava a tutti i giuramenti di tutti quanti i suoi amici perché, vabbè, in realtà, ecco, come dicevamo, nel senso era un'occasione per la divisa aiutava dal punto di vista che poi, abbiamo toccato prima, quello femminile, quindi questo lo devo confessare. Poi il discorso pure del servizio militare è una cosa che, pur essendo stato... Ho capito perché hai fatto 7 anni lì, perché tu ci hai dato dentro. È solo per quello, infatti. Esatto. Fregava un tubo dei militari. No, perché io pacifista, love and peace. Esatto. Allora, infatti è strano, sai, quel poco che ti conosco, perché non è che non ti conosco in maniera profonda, però quel poco a percezione mi sembrava strano, no? Che... Ma non è scato, era dai. Ma c'è, guarda che... In Italia ci sono molti pregiudizi, in particolare anche sui militari che sarebbero tutti di destra. Molti, dove ero io, avevano in tasca, non so, uno aveva addirittura l'otto operaio, mi ricordo. Cioè, va bene. Ci sono molti, molti pregiudizi. No, in realtà è più un luogo comune, più che un pregiudizio, nel senso che comunque allora se tu fai quello sei così, no? Nel senso, in realtà poi alla fine, come abbiamo detto, le situazioni sono sempre... varie. Un secondo soltanto. Allora, vi diremo dopo di che parlerà il primissimo episodio, ma vi diciamo prima come sarà un po' composto il programma, se riusciremo a dargli dei binari, perché poi quando c'è Carlo Sant'Agostino, Davide Gatti e Roberto Tomaiuolo poi diventa un casino, cioè sempre uno parla sopra l'altro. Però apriamo le parentesi, graffa, tonda, quadra, bravo, esatto, le digressioni, quelle che una volta si chiamavano digressioni. Allora, prenderemo un tema che darà di solito, che darà ovviamente il titolo alla puntata. Quel tema prima lo cercheremo di introdurre nel modo più oggettivo possibile, magari prendendo articoli, spunti da situazioni o cose che magari possiamo aver letto da qualche parte. Poi ci sarà la parte centrale, più importante, che è un po' la parte più discorsiva, più esperienziale del programma, quindi anche come noi rispetto a quel tipo di argomento che abbiamo impostato, diciamo, l'abbiamo vissuto, come l'abbiamo percepito, e tutto quello che ne conviene. E spesso e volentieri saranno anche dei dibattiti importanti, perché comunque su in linea massima abbiamo una visione abbastanza generale, ma sulle cose specifiche in realtà poi ognuno ha una visione personale, e quello sarà secondo me la parte più interessante. Se ci riusciremo alla fine della puntata, verso la fine della puntata, vorremmo cercare di fare una sorta di esperimento sempre legato all'argomento della puntata, pensando a come sarebbe stato affrontare un problema che oggi risolviamo con un click, con una telefonata, con uno, affrontarlo negli anni 80, dove gli spazi, i tempi e le tecnologie erano diversi, insomma. Quindi vediamo un attimo, perché pure per dare un po' di brillantezza. Tra l'altro, se volete, perché io ho già dei temi che vorrei proporre, quindi poi dopo affronterò il discorso con loro. Carlo c'ha i suoi, Roberto c'ha i suoi, Davide c'ha i suoi. Poi cercheremo di fare una scrematura, perché altrimenti verranno di 100 puntate probabilmente, insomma. Giusto che vengano 100 puntate, lo 200. Lo sapevo io che finiva così. Però poi se avete anche voi magari delle cose da suggerire, che noi possiamo mettere e magari metabolizzare e riadattare all'interno di quello che è il nostro piano editoriale, insomma, ci fa assolutamente piacere. Ad esempio, Carlo, quali possono essere, senza spoilerare troppo, però quali potrebbero essere gli argomenti che tu vorresti portare all'interno di questo programma? Ma sono tantissimi, però a me piacerebbe, ma è così, è giusto per iniziare, almeno nelle prime puntate, andare per argomenti settoriali di genere, tipo facciamo la puntata su le sigle dei cartoni animati degli anni 80, 70, 80, okay. Oppure facciamo la puntata sui telefilm, facciamo la puntata su degli anni 80, la moda, che ne so, la scuola. Aspetta, Davide, sì, che poi lo chiedo anche a te. Verticale, comunque, esatto, sì. Vabbè, poi io dico solo cose nerd, perché ero nerd, quindi inutile. Vabbè, ma infatti mi dici gnocca, come tu dici, io boh, cosa, chi, quando. Esatto. Vabbè, lì ci penso io, non vi preoccupate. Beh, diciamo che possiamo raccontare quello che vedevamo e quello che speravamo, però al limite. Esatto. Davide, invece tu quali possono essere? Perché c'è anche la musica. Goldrake sicuro. Sì, beh, anch'io, diciamo, gli argomenti che più sento ovviamente sono sempre quelli filotecnologici e tutti quelli che li contornano. In particolare a me interessa, si può anche parlare di musica e di cosa volevo dire, mi ero venuto in mente prima, adesso mi sono dimenticato, vabbè, comunque sì, giochi, anche giochi, ma non inteso come videogiochi, giochi che facevamo che secondo me oggi un millennial neanche se li immagina, proprio zero, neanche mezzo se ne immagina, giocare a biglie, che ne so, una cavolata a caso mi è venuta in mente. Ma io mi ricordo che al posto dove andavo io in vacanza nelle Marche, dove ci venivano tutti i cugini e roba del genere, preso spunto da un gioco di Commodore 64 che era Summer Games, io organizzavo le Olimpiadi. Poi attaccavo il Commodore 64 alle casse e facevo gli inni. Cioè, per esempio, facciamo le Olimpiadi divisi in squadre e facevo sentire gli inni delle squadre quando vincevano col Commodore 64. Cioè, nel senso, io dove abitavo avevo un cortile privato dove andavamo tutti a giocare, dove negli anni 70 tutti i bambini erano lì, eravamo in 50 bambini che giocavano, mezzo campo era destinato al calcio, eccetera. E c'erano due tizi, due ragazzi che erano più grandi di noi, davvero proprio organizzatissimi, ma alla grande, venivano giù ogni tanto con tutto il loro block notes, fogli, robe, tutta la roba, e si faceva giochi senza frontiere. Sì, bravo. Giochi senza frontiere, questo è mitico. Ma penso che sono andato anche a vedere una puntata dal vivo. Ma ci fosse stata una volta che l'Italia ha vinto una puntata. Ero andato a Vigevano, me lo ricordo ancora adesso, a vederlo. Sì, c'era pure giocare per strada, cose... Vabbè, un po' c'è ancora, però non come facevamo noi, dove ero io... Avevamo due strade diverse che avevamo ribattezzato Maracanã e Amsterdam. Non so perché Amsterdam, non l'ho mai saputo. Ed erano due campi di calcio in pratica. Droga in quella strada. Forse c'era, più avanti, molto più avanti è diventato uno dei posti più noti di Milano per lo spaccio di droga. Comunque, tralasciando adesso queste amenità, e lì appena passava la macchina, il primo urlava macchina, ci si fermava tutti, poi si ricominciava. Sì, era vero. Per cui erano altri tempi. Beh, comunque mantenere, a mio avviso, un giusto bilanciamento fra una serie di riflessioni che io ritengo importanti, riferite sì a questi anni, che però sono anche, secondo me, utili per comprendere gli anni che viviamo adesso. Molte cose di cui parliamo ancora adesso nascono in quegli anni, e non siamo solo noi a dirlo. Vedete, anche molti ragazzi giovani si parlano, non so, il divorzio tra il Tesoro e la Banca d'Italia. Il divorzio 1970. O il divorzio in sé, o l'economia, quanto era meglio l'economia. Vedete, adesso tutti rivogliono la lira. Allora, ma infatti, Roberto, penso che io e te porteremo un po' di equilibrio su questa, perché anch'io poi vorrei affrontare anche temi, chiaramente senza appesantire e senza poi esprimere questioni, cioè nel senso questioni proprio di giudizio, però comunque sono degli eventi che non possono non essere raccontati, perché comunque magari è come li abbiamo vissuti noi. Cioè io, ad esempio, senza aggravare un po' la situazione, mi ricordo ancora il momento in cui al telegiornale hanno detto che era stato ammazzato Aldo Moro, no, ad esempio. E una... molti attentati terroristici in Bologna, sì, sì, però io quello me lo ricordo proprio bene, perché poi in realtà faccio un parallelismo, ritorniamo un po' a quello che è il discorso anche di confrontare un po' le generazioni temporali più che umane, no? Che è quello del fatto che allora tu sapevi che c'era un'inquadratura dove dentro c'era la persona che non era più in vita, e sta cosa ti uccideva, cioè ti faceva male, nel senso ti spezzava il fiato. Oggi siamo abituati a vedere le carneficine. No, adesso Simone, non esagerare. Oggi non sono abituati a vedere le carneficine. Sono abituati a vedere le carneficine finte, non quelle vere. Beh, non lo so. Quello io ho visto reazioni diverse quando c'è stato quell'attentato alla Maratona di Boston. E che poi alla fine, quando hanno cominciato a girare le prime foto, no, con ti sprazzi di sangue, cose, no, nel senso, secondo me non aveva la stessa, cioè la gente è un po' più assuefatta da questo punto di vista. Secondo me questo lo pensi tu, nel senso che è la mia considerazione, non ho detto che è così, cioè, un bambino come eri tu nella tua età, se l'avesse visto adesso avrebbe avuto, secondo, cioè tu bambino avresti avuto la stessa reazione. Diciamo che c'era una copertura mediatica all'epoca, che era, alla fine era più o meno quasi sul telegiornale o una cosa che sbirciavamo sul giornale di nostro padre. Adesso oggi c'è una sovraesposizione. Ogni 10 secondi sappiamo qualunque cosa succede in qualunque parte del mondo. Comunque queste sono alcune delle cose che possiamo trattare. Esatto. Non il pubblico, nel senso che noi rimaniamo essenzialmente cialtroni, quindi esatto. Io dico, non è che ci trasformeremo. Tu hai accennato una cosa che io dico spesso quando sento qualcuno che si lamenta, che dice ma adesso il mondo è pericoloso, i ragazzi non possiamo farli girare per la strada come una volta. Ma io su questo ho una mia opinione, vai. Io dico sì, certo, noi negli anni 70 siamo sopravvissuti per miracolo. Io su questa cosa mi ci avveleno terribilmente, anche perché poi uno, mia moglie lo sa, un po' dei primi problemi che ci ho avuto magari con mia suocera era proprio il fatto che comunque io ho cominciato a spingere il fatto che Matteo a 8 anni, dato che comunque la scuola stava qui, incominciasse ad andare a scuola da solo, no? Per responsabilizzarlo, per fargli comunque fare un'esperienza, no, che è diversa dall'essere protetto dentro le campane di vetro, no? E quando io vedo la gente ma che fa, vai a giocare per strada, ma addirittura una volta una ci disse, erano andati al centro commerciale con gli amichetti, no, e dice, ma lo sai che abbandono di minore, cioè, ma scusa, ma io quando avevo l'età sua e andavo a giocare a Villa Fiorelli al parco e c'erano le siringhe grosse così per terra, perché una volta non c'era tutta sta cura dell'ambiente, della situazione, perché le strade delle città facevano schifo, perché facevano, sì, facevano un confronto adesso, sì, esatto. E poi era il terrorismo che c'era in giro, cioè, c'era il terrorismo, abbiamo passato già con il rischio delle bombe. Esatto, esatto. Quindi alla fine eravamo bambini e vedevamo quelle cose come cose strane, però era veramente pesante in realtà il clima intorno. Ma io lo sapevo, perché, cioè, nel senso, comunque in qualche maniera lo sapevo, tra virgolette. Ma tu eri più grande, percepivo il pericolo quando, perché mia madre me lo diceva, perché me l'aveva inculcato in testa quando vedevo una determinata situazione, ma questo non mi impediva di andare a giocare a pallone al parco. Cioè, invece noi abbiamo anche rischiato, almeno io, cioè, facevamo cose folli in bicicletta, ci lanciavamo giù da dirupi. C'è stato un periodo che facevamo le guerre fra bande e avevamo gli archi con le frecce. Cioè, se avessi beccato qualcuno in un occhio, quello probabilmente sarebbe morto. Cioè, io adesso se raccontassi ho fatto io da ragazzino, penso che ancora adesso penso mi arresta. Io penso di aver rischiato anche io stesso, prima persona, voglio dire, ho rischiato varie volte di rimanecce, voglio dire, perché comunque magari la stronzata ma quello è più, cioè, nel senso, quello è sintomatico dell'essere giovani, dell'essere ragazzini, cioè la strozzata. Ma noi eravamo da soli, cioè, come hai detto giustamente tu, i nostri genitori, meno male, a me perlomeno dopo una certa età, io andavo con i miei amici tutto il giorno. Sì, ma io una certa età, ma molto piccola. Molto perché piccola. Poi, io sai cos'è? Avevo due fratelli e io uscivo con loro e i miei genitori erano tranquilli, ma appena usciti, tutte e tre strade diverse. È chiaro, e poi mi raccattavano la sera e tornavo su con loro, ma in realtà loro pensavano che fossero, che mi curassero, e ogni tanto succedeva che c'era qualche casino e dove l'avete lasciato? E boh, sono spostato un attimo e non l'ho più visto, è scomparso. Sì. Cose, era un mondo più pericoloso, però era sulla pericolosità non saprei valutare, sicuramente. Io comunque, essendo anche cresciuto a Roma, che era una città particolare, come dicevamo, il terrorismo, la criminalità, oggi c'è, cioè, oggi se la c'è, cioè, oggi, allora, secondo me la criminalità c'era, mica tanto indietro, no, ma sicuramente è così, cioè, nel senso, comunque stiamo parlando di due città che hanno vissuto il fulcro in Italia di quello che è stato anche la situazione criminale e politica del nostro paese, quindi alla fine l'abbiamo, e il problema è che alla fine, cioè, nel senso, noi comunque la vivevamo uguale, cioè è vero che, ecco, una cosa interessante, perché vedo Lobby che scrive, dice, vabbè, siete anche sopravvissuti a tutta una serie di prodotti anche alimentari e i coloranti e GC272354, esatto, cioè, nel senso, era una società con meno protezioni, meno controlli, e quindi alla fine quello che abbiamo mangiato, vissuto noi, era un'esposizione da un certo punto di vista, ma questo non ci rende migliori o peggiori, cioè non è una questione, no, la mia era solo, è una constatazione, era una constatazione al fatto anche di chi si lamenta dell'oggi. Cioè, infatti, non lamentatevi dell'oggi. No, ma infatti a me mi fa ridere quando vedo, dice, ma è pericoloso per strada, ma oggi è pericoloso, ma voi non lo sapete neanche che cazzo era la strada pericolosa una volta, cioè, nel senso, una volta le macchine andavano, non avevano nessun dispositivo di sicurezza né dentro né fuori. Vabbè, se tu eri nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, a volte non avevano nessun dispositivo e basta, cioè, nel senso che a malapena c'avevo nel volante, insomma. Ma voi vi ricordate la vostra prima macchina con l'aria condizionata? Per me è stato un miracolo dell'ingegneria. Esatto. Cioè, ho sofferto le pene dell'inferno per il caldo in macchina. La macchina di mio padre, che ho quasi sfasciato, mi ricordo, la tema nuova, mio padre, affiancata, come è stato divertente. Mio padre aveva la tema 832, quella col motore Ferrari, che ne fecero una serie limitata. Che coincidenza che mio padre aveva il lanciatema e aveva anche un'altra macchina che mi aveva prestato per andare al mare e gliel'ho rotta. E comunque la tema, ragazzi, la tema era una gran macchina, cioè, proprio una gran macchina. Sì. Cioè, la Lancia era una gran marca. Sì, esatto, bravo. Sì. Esatto. Ricordiamo la famosa Delta Integrale, il campione del mondo dei rally più volte. Io ce l'ho avuta. Adesso è tutto FCA, però è tutto. E me l'hanno rubata. Ce l'ho avuta e me l'hanno rubata la Delta Integrale. Succedeva? In quegli anni rubavano le macchine a tutto spiano e rubavano un sacco di autoradio. non esistono più le autoradio. Adesso le macchine non le rubano più, rubano in questi anni, ho scoperto che rubano molto invece i cruscotti digitali, quindi li rubano ancora. Sempre Lobby in chat dice: siete sopravvissuti anche a decenni di esposizione ai CRT ed è un miracolo che non siete trasparenti. In effetti, i cerrettini ho tre accesi adesso, cosa stai dicendo? E lui è ancora sotto esposizione, chiaramente. Tu in effetti, Carlo, tu in effetti a luce spenta sei un po' verde, eh? Hai ragione. Quando ti vediamo al buio ci vediamo un po' col contorno. Lui c'ha i fosfori, se tu gli tocchi la guancia e spingi, invece hai visto il bianco che viene, no? Lui viene il fosforo verde, lui, quindi, Ah, ecco, esatto. Bene, questa insomma è un po' l'idea, no? Vedete che alla fine io per esempio vorrei parlare... della Kodak, vorrei parlare dei rullini. Sai che la Kodak erano l'azienda Kodak di Milano era a Cinisello Balsamo, dove abitavo io. Tutto a Cinisello Balsamo. A circa 300 metri da casa mia c'era la Kodak, un'azienda mega gigantesca galattica, di fianco alla GBC. Per chi ascolta Runtime Radio durante la giornata, quei pochi che lo fanno, perché chiaramente insomma fino a che non ci sono live capisco che non è a tutti interesse, anche se qualcuno, devo dire, nonostante tutto, oggi abbiamo mandato una vecchia puntata di forse dell'altro anno, il mio primo computer, non so se Davide te la ricordi, perché c'eri, tu c'eri in trasmissione. Io non c'ero però. No, tu non c'eri, ci dovevi essere tu e Walter Vannini, poi non ci siete stati nessuno dei due, e quindi eravamo io, Alex, Davide. Forse è stato meglio però se non c'era. Probabilmente sì, ma non so se lui ha avuto tutti i primi computer. Guarda, il problema è quello di Carlo. Mi sa che c'eri anche tu, invece dopo me la riascolto, però comunque vabbè, insomma, alla fine ogni cosa che succedeva, no, ma quelli stavano qui a Cinisello Balsamo. Beh, io vicino all'IBM, alla sede centrale di Milano. Grate? Dell'IBM. Grate? No, quella di Mercatone. Ah no, vicino Piazza Udine. A Spurgate. Vergate sul membro. Lo sapete che perché la Kodak si chiama Kodak? Perché c'era Ciribiribi? No, lo sapete veramente? Sì, l'hai detto recentemente. Mi sfugge. Kodak era una questione perché cercato, era pronunciabile in tutte le lingue, sì. È completamente inventato e l'hanno cercato per trovare un nome che si pronunciasse allo stesso modo in tutte le lingue o nel maggior numero di lingue possibili. Allora, in quel modo. Alessandro ci dice la Stratos, mentre Guest 3547, che suppongo sia Angela, suppongo, perché Angela devi mettere il nome sotto, se no non lo riusciamo, se sei tu, CRT. Mentre giovane che non sa cosa voglia dire l'acronimo CRT. Allora, CRT sono, ma senza fare, i vecchi televisori, quelli a tubo catodico. Per tubo catodico, che quando tu ti avvicinavi si sentivano i capelli che facevano... Catodic Ray Tube, quello grosso che pesa, quello, esatto. Quando i televisori per spostarli devi usare la gru, quando che li sentivi non ne ha mai visto uno, è nata che c'erano già gli LCD, quindi quelli piatti, certo. Chi lo sa, uno non neanche sospetta che esiste, no, ma in discarica esiste. Li vede ogni tanto uno, ma mica va in discarica. Io ci vado una volta all'anno in discarica. Anche agli angoli delle strade li troviamo. C'è Cuciniere che ci dice che Ciribiribi era di San Giovanni a Teduccio. E vabbè, sti cazzi. Ma chi dici? Il nano, quello, il bambino. Ciribiribi Kodak. Grande pubblicità quella, grande pubblicità. Quindi ecco, Kodak nel senso, bisognerebbe parlare delle istantanee che oggi sono tornate molto di moda, però, cioè, voglio dire, ragazzi, era un'altra storia. Polaroid. Mi piacerebbe parlare del Super 8, quindi dei filmini. Noi una volta facevamo i filmini, cioè nel senso, non è che andavamo, e quindi, le VHS. Le VHS già, no, nel senso. Era... VHS sulle casse. Chi coglie la citazione? Non lo so, però mi sembra tanto della radio cassa rotta, no? Cassa dritta. Ma no, cassa dritta. Ma dai, nessuno assurda, sulle casse, no, non lo so. Siamo entrati nel tunnel del divertimento, salame a fette spesse, VHS sulle casse. Mai caparezza. Mai sentito una cosa, cioè. Cose che magari qualcuno le ha saltate, non è che io l'ho saltato. I vinili. Non, no. Beh, comunque le casse, allora, quanto costava uno stereo decente all'epoca con una cassa a due vie, a tre vie, sapere cos'era un Twitter, un woofer. Davide ricostruiva. Cioè. Davide ricostruiva. Al giorno d'oggi praticamente non esiste più nulla di quello, lo stereo modulare a pezzi, prime piastre, il sistema Dolby. È diventato di nicchia, ma esiste ancora. Nonostante tutto esiste ancora, esiste un mercato, soprattutto in Giappone, che però viene anche... Ci sono alcuni venditori ancora in giro per l'Italia che vendono questi dispositivi anche nuovi. Vengono ancora prodotti, però sono veramente diventati una nicchia, perché ormai le nuove generazioni, la musica non esiste che in altra forma che quella che esce da un telefonino o da, sì, da un dispositivo. Sì, diciamo che gli anni 80 in particolare, ma forse anche un po' gli anni 70, ma gli anni 80 in particolare sono stati gli anni dell'hi-fi, no? Dell'alta fedeltà, no? Di sti stereo. Esatto. Io mi ricordo un paio di meraviglioso. Ho avuto anche un periodo di passione di quello, che compravo una rivista che si chiamava Alta Fedeltà. Cioè avrò 200 numeri di Alta Fedeltà. Iniziavo anche c'era lì. Anche il suono, no? Sì, ce n'erano altre. Io ho preso Alta Fedeltà, non so perché avevo preso quel che poi è diventata Alta Fedeltà Digitale a un certo punto. Certo, si sono allineati. Negli anni 90, primi 2000, e lì si parlava degli impianti 5.1, che poi sono diventati 7.1. Io 8.1. Mi ricordo che c'avevo questo. Mi ero riempito la casa di casse, subwoofer, casse, ce n'è ancora qua che gira. C'avevo questo impianto della Pioneer che era composto da amplificatore. Piastra, cassette, doppia cassette, con tanto c'avevo pure il microfono addirittura. Poi c'era il giradischi. Vabbè, comunque era composto dei quattro blocchi fondamentalmente. Cioè era un amplificatore, c'era tutto. Io mi ricordo il primo sistema Dolby che arrivò in Italia, che era una piastra di registrazione della Harman Kardon, che mio padre non so come si procurò. Grande marca. Che lo è ancora, era una cosa eccezionale, con questa levetta che metteva il Dolby, che all'inizio ti tronciava drasticamente tutte le frequenze, quindi alla fine faceva schifo, però esatto, l'effetto era sempre bruttissimo del Dolby, però io ce l'avevo sul mangianastro. Io più che del Dolby, ecco, sto parlando di un argomento di cui ne so poco, quindi sappiate, non è come il mio solito quando parlo di cose di cui me ne intendo, però quando mi ricordo il tasto di quegli stereo che si chiamava Loudness. Quello era magico. E quando lo schiacciavo diventava tutto bellissimo. I bassi. L'antesignano dell'equalizzatore. Ma infatti sì. Loudness e Dolby c'erano anche sulle piastre, io sullo stereo mio della Pioneer, infatti ce l'avevo nel Loudness era nell'amplificatore. In generale sì. Però mi ricordo che pian piano sono venuti gli equalizzatori, chiaramente sempre più complessi, poi digitali e quant'altro. E comunque vabbè, c'era sto bel pulsantino, era appassionatissimo di hi-fi. C'era sto bellissimo pulsantino Dolby vicino al mangianastri, no? Quando tu mandavi in play lo spingevi e cambiava, però faceva schifo di solito, però comunque sì. Vabbè, Dolby poi dopo è arrivato il Dolby C. Comunque, parlare della nostra esperienza con i vinili, con i mangiadischi. No, infatti vuoi sapere una curiosità? Ah, ragazzi, questo. Siamo partiti, mancano ancora. Esatto. Non siamo a un'ora ancora. Che è fai? Questo quello. No, manca 3-7 minuti, allora è finito. No, ma non è quello, però dico, cioè, è questo quello che succederà a sta trasmissione. Cominceranno a parlare per conto loro e arrivederci, grazie. Comunque, un secondo soltanto. Le cassette metal, chi se le ricorda? Ah, sì. Al cromo. Allora, Pier G dice: ma la prima televisione con il telecomando sembrava una magia. Caro amico mio. La televisione a colori anche, cioè, è vero. Io... Nessuno di voi è stato il telecomando fisicamente? Da piccoli tutti. Che spingevi il pulsante. Gira il canale. Ma io ho fatto anche la retromarcia, se per questo. Quando eravamo in accademia che non volevamo spendere soldi, comprammo una vecchia 128 in 4. E questa macchina aveva solo la prima, la terza e la quarta. Quindi se erano rotte la retromarcia e la seconda. Che voleva dire che quando dovevi fare la retromarcia, uno doveva scendere e spingere la macchina all'indietro, con immense risate, non vi dico, anche uscire con delle ragazze con questo catorcio, sono state le cose più divertenti della mia vita. Però faceva parte anche, cioè già che ce l'avevi, capito? Certo. Quindi, mia macchina è stato 300.000 lire in quattro, una cosa così. Comunque, gente che in Dian, nella Dian ha fatto festini. Vabbè, ma la Dian, tu, se, allora, se vogliamo parlare. Il 4 ha attraversato tutta la Corsica. Se vogliamo parlare anche, insomma, di argomenti un po' più spinti, tipo il sesso in macchina, con la Dian era facile perché tu dai due o tre colpi di reni, insomma, e poi faceva la macchina perché anche il Renault 4 esatto, e quella ribalzava da sola praticamente, insomma. Comunque Alessandro dice i vinili, i 45 giri dei cartoni animati PRG, ciao ragazzi, 33 giri, 33 giri non si, scusa, i 78 giri, i 78 giri, i 78 giri, grande, erano grande. Vecchi già quando noi eravamo giovani, 78 giri. Ma che mai la curiosità che volevo dire è che i vinili al giorno d'oggi hanno, ho letto di recente una articolo, e la grandissima parte dei vinili al giorno d'oggi, secondo voi chi li compra? Che fascia di età li compra? I ragazzi giovani, nuovi. I ragazzi giovani. Mia figlia, mi sono stupito, ha comprato un vinile, lei è arrivata a casa col vinile e ho detto ma scusa, adesso? E fa, ma tu non ce l'hai giù? Sì, sono dovuto andare giù a tirar fuori dal casino il letto, il mio stereo con il piatto eccetera, perché lei si era comprata il vinile della colonna sonora del film che lei ha visto 300 volte, che a me fa cagare. Aspetta, com'è che si chiama? Ci pensi tanto, io dico che quando mi immagino tu che vai a prendere il giradisc, che vai a prendere il giradisc in box, mi sembra di vedere il capannone di Indiana Jones quando vanno a cercare dove vanno a depositare l'arca dell'alleanza. Mi viene in mente quello, vado a cercare il giradischi un attimo. In chat c'è Michela che ci racconta delle cose che non posso leggere chiaramente. Adesso, adesso vado dall'avvocato. Dell'avvocato invece giustamente ci ricordano la TV svizzera. Io vivendo a Milano ricordo anche Scaccia pensieri, te lo ricordi? Scaccia pensieri. Allora, però posso dire, allora, perché qui si parla della televisione a colori, no? Allora, io la televisione a colori ce l'ho avuto verso metà fine anni 70, intorno al 78, perché mi ricordo che in classe c'era un mio amichetto che diceva io c'ho la televisione a colori, trasmettevano Pinocchio in quel periodo, penso sia stata la prima volta che, quindi cerchiamo insomma magari su Google per capire quando è stato trasmesso, e comunque lui diceva io vedo Pinocchio a colori, io a colori, che poi che cazzo di domande mi facevo, e com'è a colori? È a colori, cioè nel senso colori. Però come si vedono i colori sulla televisione che di solito è in bianco e nero, no? Cioè nel senso, ma ve lo ricordate quel cosa? Aspetta, fammi finire. No, aspetta, prima te lo dico, se no me lo scordo, quello che mettevi, che diceva che faceva diventare la televisione in bianco e nero, era colori. No, io mi ricordo con lo schermo colorato. Io mi ricordo cosa adesivo da appiccicare sopra. Esatto. Blu sopra e rosso sotto. No, ma no, era tutto multicolore. Multicolore, bravo. Sì, esatto. C'era le 4-5 strisce colorate, ma quello l'ho visto, c'era la televisione a colori, poi ma che è sta cazzata, cioè dentro di me, no? Però comunque e tua moglie va ancora peggio. Adesso ci dice che non era lei, ma sua mamma, cioè io davvero vabbè, non vogliamo sapere altro. Comunque dicevo, basta Michela, ti prego, non scrivere più alla fine lui diceva no, abbiamo una certa età, Pinocchio a colori, bla bla bla. Allora io sono andato a casa da mio padre e ho detto papà ti prego compriamo la televisione a colori, e mi ricordo che tempo un mese arrivò sto Telefunken, ancora non ricordo, un televisore enorme. Noi siamo scienza, non fantascienza. Esatto. Con questo televisore che c'erano poi i colori sbiaditi, non è che, cioè tu potevi anche. Ma no, all'epoca erano colori normali. No, belli. Però tu lo dovevi aumentare il colore, potevi aumentare. Però a me regalarono il Sony Trinitron piccolino, che era una cosa fondamentale. Ecco io. Questo c'aveva i sordi, stupendo. C'aveva i sordi, esatto. Io addirittura ho avuto la TV a colori Nordmend all'inizio, non so esattamente l'anno, ma ricordo che praticamente l'unica trasmissione a colori erano le prove di trasmissione a colori della Rai che partivano la mattina. E poi la TV svizzera che era già a colori. E forse la TV svizzera, ma non c'era niente a colori. Infatti Ruggio in chat dice che i suoi genitori avevano comprato la prima televisione a colori negli anni 70 e dovevano guardare la televisione svizzera perché la Rai ci ha messo un sacco a decidere tra PAL e SECAM. No, non tra PAL e SECAM, no, ti sta sbagliando. Attenzione, in realtà era un Italia, era stato lanciato un sistema di codifica a colori che non era il PAL, ma era stato pensato in Italia, c'era uno standard italiano diverso. Addirittura, okay? Interessante, sì, questa cosa. Fatto a Torino, autarchico, bravissimo. E come per si anni, chiamava? Noi siamo arrivati in ritardo in Italia con la TV a colori rispetto a tutto il resto d'Europa, perché ci fu proprio questa contrapposizione tra il fatto che molti volevano che il sistema nazionale a colori fosse questo di invenzione italiana, anziché il sistema PAL che invece era stato inventato in Germania dalla Telefunken, perché tu hai avuto il Telefunken, ma Telefunken è quella che è vedete PAL. Quante miliardi di cose potremmo dire, noi parleremo dei paninari, parleremo di comunque ricordiamoci di anche Star Wars, cioè Spazio 1999, no, che fu la trasmissione, cioè fu un coprodotto dalla Rai, questo narra la leggenda, sì. Voi mi confermerete, proprio per avere un prodotto trasmesso a colori, cioè nel senso, quindi vabbè ragazzi, ce ne sarebbero tantissimi con la colonna sonora degli Olive Onions, no, ma grande colore, dopo dovremo scegliere anche le canzoni da mettere, durante la trasmissione, esatto, fino a che poi non arriva il signor Sia, un giorno ci si ingroppa a tutti, però non fa niente, sì, non fa niente. Ma prima che trova ma non sono già scaduti i diritti d'autore, dopo un tot di anni scadono, sì, per cui dopo 70, stiamo parlando 70 del secolo scorso, del 70, millennio scorso, 70 anni dopo, sotto i 70 so. Comunque vabbè, dai, al di là di questo, che poi adesso mo si sono inventati le rimasterizzazioni, no, perché sì, anche nei film, dato che alcuni diritti anche insomma de band importanti, no, Beatles, cose del genere, si stavano avvicinando, no, al decadimento, la rimasterizzazione riattiva in parte dei diritti d'usufrutto, insomma vabbè, lasciamo perdere, questo è un discorso che negli anni 70 e 80 c'era, ma marginalmente, grazie a Dio, e comunque vabbè, ce ne sarebbero tantissime storie, dai, basta, che sennò qua andiamo ovviamente esatto, quindi avete capito, insomma l'idea è portiamo un tema, portiamo ovviamente questa discussione partendo da una descrizione generale, magari più oggettiva possibile, dell'evento o della situazione che vogliamo parlare, la nostra esperienza, quindi anche il nostro dibattito, e poi insomma questa parte finale dove cercheremo poi di immedesimarci, cercando di capire come avremmo potuto risolvere un problema allora con o magari oggi con i mezzi d'allora, chi lo sa, adesso ce la studiamo un po' bene questa cosa, perché c'era una bellissima trasmissione di Joslen, che non so chi si ricorda, Madonna, Joslen, ora si ricorda Joslen, dove praticamente di notte dicevano devi, non so, far arrivare 10 milioni di lire, Dio, sì, me la ricordo. Ah, tutto col telefono e basta, sì. Quindi l'elenco telefonico, che era una roba veramente divertente. Praticamente di cosa parleremo la prossima volta? Ah, sì, Simone? Adesso lo dice. Praticamente questa trasmissione gli davano tipo 10 milioni di lire, ok? E dicevano tu questa notte devi spendere tutti e 10 milioni di lire, se li spendi e trovi il modo di spenderli, questi 10 milioni di lire, tutte col telefono, e li vinci questi soldi, no? Fondamentalmente, non so se vinceva i soldi o le cose che poteva acquistare, e veramente tutto col telefono in un albergo di sera, dalle 8:30 in poi, no? Quindi cioè, dove le attività commerciali erano anche chiuse, e questi cioè, veramente succedevano delle cose incredibili, e anche delle esperienze mi ricordo uno che si riuscì a convincere il gioielliere ad andare in gioielleria a prendere il gioiello e portarglielo in albergo, lì veramente cioè, sei un grande, perché comunque c'è gente che sarebbe stata capace. Adesso ci metti 5 secondi su Amazon, quindi di notte, di giorno, sì, oggi non sarebbe applicabile. A svuotare la carta di credito ci vuole un istante in questo momento, ragazzi, per chiudere, nel senso, fare, direi anche una cosa, se mi dite poi se siete d'accordo o no, io no, vorrei anche suggerire i temi e le domande ai nostri ascoltatori, quelli sul gruppo, eccetera. Sì. Magari ce le facciamo suggerire da loro, e poi magari il tema della puntata lo facciamo eleggere con un sondaggio, magari per le prossime puntate, o magari anche quell'attività da fare ce la facciamo suggerire all'interno del gruppo. Ok, potrebbe esserci la serata al volo, decidete voi e noi parliamo. Allora noi ragazzi, telegram.me/dirette runtime, oppure andate su Facebook e scrivete quando eravamo futuro e troverete sicuramente il nostro gruppo, lo riconoscete senza nessun problema. Altrimenti, tanto noi siamo cialtroni, riusciamo a parlare di qualunque cosa, non preoccupatevi. Esatto, scrivete tutto quello che vi viene in mente, noi cercheremo insomma di metabolizzarlo e di integrarlo all'interno di quello che è il meccanismo. Vi ricordiamo che giovedì prossimo alle 21:30 ci sarà il primo vero episodio di Quando eravamo futuro, e l'argomento fondamentale è cioè, noi ci interrogheremo proprio se era meglio o era peggio quando stavamo peggio, o era meglio quando stavamo meglio, insomma, che cercheremo poi di... O se c'è una particolarità negli anni 80, vedrete che abbiamo delle chicche, delle chicche, ma anche delle posizioni abbastanza diverse, per fortuna. Vi ricordo di cercare, quando eravamo Futuro, su Google Podcast, su Podcast Addict, su iTunes, su tutti quanti i feed reader possibili e immaginabili, ma ci trovate ovviamente nel network di trasmissioni di Runtime Radio su Spreaker, e ovviamente a ripetizione ogni tanto anche su www.runtimeradio.it, sulla nostra web radio. E mai su TikTok. Mai su TikTok, no, non noi. Non ci andate, perché no. Non ci trovate, no, non saremmo neanche capaci, tutto sommato. Esatto, non saprei neanche cosa fare. Approfitto semplicemente gli ultimi secondi per dire che domani mattina, a parte questo episodio che sicuramente lo troverete già nei feed, uscirà Snap Architettura Imperfetta, che è il nostro podcast di Roberto Marin dedicato all'architettura e alla tecnologia, mentre domani a rotazione su Runtime Radio alle 9 ci sarà la replica di Il Mattino Loro in Podcast, alle 11 c'è Archeologia Videoludica con la terza puntata storica del vecchio podcast di quando ancora Carlo Sant'Agostino non ci aveva picchiato, alle ore 13 questa trasmissione non ha un nome, che è il programma che faceva Cesare Giraldi con Simone Cusella, alle 15 70 mito 80 storiche, era appunto, guardate caso, ovviamente un primo tentativo che facemmo allora, anche se totalmente diverso, forse anche troppo giocoso da un certo punto di vista, e alle 18 Passione Sound Design dedicato a The Last of Us, perché ricordatevi che domani sera alle ore 21 live torna Ludico Forum proprio con una puntata interamente dedicata a The Last of Us parte seconda e Lacrime Amare e soprattutto, ragazzi, spoiler free, quindi non rompete i coglioni che ci sarà, insomma, e questo è quanto. Io ringrazio e saluto con un pensiero finale, se vuole, Carlo Sant'Agostino. Non abbiamo dato il numero di fax. Ah, non abbiamo, è vero, il numero di... O il tel, no, com'era il Videotel? Il Videotel. No, il Telex. Pagina del Telex, sì, esatto. E le video anche. 0206, i prefissi. Il 002 è importante. 081. No? Ma c'era anche il Videotel, scusate, non c'era il Videotel. Ah sì, anche il Videotel. Sì, c'è stato, è già recente. C'era un'altra trasmissione simile a Joslin, che si doveva trovare il proprietario di un oggetto smarrito. Sì, ma quelli erano periodi anche creativi dal punto di vista dei quiz, dei telepremi, insomma. Comunque, vabbè, detto questo, ringrazio e saluto anche Roberto Tomaiolo. Ciao. E ringrazio, è proprio lapidario. Baci e bracci. E ringrazio e saluto ovviamente Davide Gatti. Saluti a tutti, e ricordo, cioè, più che altro ricordo, vi lascio con questo: ma siamo diventati Futuro? Bella domanda, tutto sommato. Ma poi noi siamo diventati il Futuro? O siamo semplicemente siamo boys, ragazzi, non dimentichiamoci. Esatto. Grazie a tutti, buonanotte da me, Simone Pizzi, e Runtime Radio, e ricordatevi sempre di seguire sia la radio che tutti i nostri podcast su Spreaker. Ciao. Ciao.